Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Buona domenica a tutti voi da Gegè Telesforo. Siete collegati con il Groovemaster Studio per l'appuntamento con il soundcheck, il suono della musica. E buona domenica anche al nostro archivista discografico, multimediale, esperto di sistemi di comunicazione della nuova era, ovvero Twitter, Facebook e tutti i social media che anche noi stiamo utilizzando per diffondere l'airplay in onda questa sera. Vado a introdurvi il dottor Francesco Tromba. Ciao a tutti. Ti è piaciuta questa presentazione formale? Sì, molto formale. Fatta bene, no? Allora sì, Francesco sta lanciando a destra e a sinistra l'airplay di questa sera, che prevede una sola band, perché abbiamo deciso di dedicare la puntata di questa domenica a un trio di musicisti californiani che noi seguiamo da tempo, ovvero dalla prima pubblicazione in internet su SoundCloud e poi su Bandcamp delle loro produzioni, delle loro composizioni, ovvero i Moonchild. I Moonchild, che poi hanno dei nomi. Sì, hanno dei nomi, sono Andris Mattson, Max Brick e Amber Navran, che è una delle mie vocalist preferite. Eh sì. Quando hanno iniziato a produrre musica si sentiva moltissimo nel sound dei Moonchild non so, qualche riferimento a D'Angelo, al nostro Jay Most, anche questo è un artista sconosciuto negli Stati Uniti che noi siamo riusciti a rintracciare, perché è un artista che ha generato poi la passione per un certo tipo di sound in molti giovani protagonisti dell'R&B di oggi, e soprattutto per l'utilizzo della voce di Amber Navran, che poi è anche una sassofonista e una musicista, si sentiva molto Erykah Badu, comunque con le dovute proporzioni. Certe differenze. Loro in realtà, vabbè, sì, non hanno inventato un genere vero e proprio, nel senso che comunque già prima di loro esisteva una band che si chiama Hiatus Coyote, che già avevano fatto qualcosa di molto simile a quello che propongono loro come sound. Però ma non erano ancora arrivati negli Stati Uniti, esatto. Hiatus Coyote, cioè anche loro, diciamo che più o meno sono nati nello stesso periodo, sì. No? Sì, più o meno tra il 2012 e il 2013, più o meno, diciamo. Ecco, solo che Hiatus Coyote poi hanno avuto una diffusione internazionale molto più importante dei Moonchild, che solo oggi iniziano a essere una band accreditata. Eh sì, dopo le nomination e anche i Grammy, ricevute per i Grammy Awards, ma secondo me i Moonchild hanno un gusto un po' diverso, diciamo, si sente meno ovviamente l'Australia, molto di più la California. È vero, si sente molto meno l'outback australiano, quindi, perché Hiatus Coyote hanno senz'altro qualcosa di selvaggio che sta nella vocalità e anche nella dirompente potenza scenica di Napalm. Anche gli altri componenti della band sono particolari. Eh sì, molto particolari tutti. Invece il sound dei Moonchild è elegante, così come sono eleganti e carini questi ragazzi bianchi californiani, perché anche se il sound e l'appeal che ha la loro musica è black, si sente però quella pulizia tipica di musicisti bianchi. Sì, sembrano tre tipici bravi ragazzi. Ma sono senz'altro dei bravi ragazzi, ma soprattutto dei bravi musicisti. Io direi di iniziare ad ascoltare qualcosa dal nuovo album, che si intitola Voyager, giusto? Sì, album bellissimo. Bellissimo, elegantissimo, uno dei nostri preferiti di questa stagione. Moonchild, il brano si intitola Every Part. Sì, ve l'abbiamo detto, è uno degli album più eleganti della stagione, riferimento assolutamente black per il suono dei Moonchild, ma tre ragazzi bianchi, tra l'altro sono anche bravi docenti di musica. Sai un po' le storie dei Moonchild? So che si sono formati durante un corso di jazz, perché si sono incontrati in questo corso di jazz dell'Università della California, e da lì è partito l'idea iniziale della band. Poi poco a poco si sono raffinati sempre di più, nel senso che inizialmente suonavano principalmente jazz, venendo ed essendo comunque appassionati di tutti e tre al mondo del jazz. Poi hanno creato il loro suono via via, avvicinandosi, aggiungendo comunque delle parti elettroniche, del backbeat, quindi sono diventati una sorta di band fusion molto particolare, come è il momento, diciamo, di tutte le band americane, hanno cercato di eliminare i confini tra i generi musicali. Ecco, anche se si sente il background tipicamente jazz nella formazione di questi tre ragazzi, poi nella produzione, per esempio, manca uno degli elementi fondamentali per identificare il jazz, che è l'improvvisazione. Momenti di improvvisazione in questo album dei Moonchild assolutamente non esistono, ma c'è tutto il resto. C'è un gusto molto particolare per l'arrangiamento, per i voicing che vengono utilizzati, delle bellissime progressioni armoniche, melodie non così banali. Anche ritmicamente l'album è molto interessante, insomma io l'ho trovato molto piacevole all'ascolto, una traccia dopo l'altra va via giù liscio e lascia una bellissima sensazione. Il disco è solare. Eh sì, altro elemento, diciamo, punto comune anche con gli Hiatus Kaiote, che sono un'altra band di riferimento del genere, è anche la natura, diciamo, da cui prendono ispirazione. L'apertura di Voyager è un uccello che canta al parco di Yellowstone, quindi l'ispirazione naturale di tutto il disco viene anche da quello. Show the way, Moonchild, al soundcheck. Soundcheck. Il suono della musica. Beh, diciamolo pure, in questo momento non è facile imporre un suono con tutta la musica che viene pubblicata, con l'utilizzo smodato che viene fatto dalle nuove realtà di internet, quindi SoundCloud, Bandcamp e tutti i siti di riferimento. Però poi quando vengono fuori produzioni così interessanti, così eleganti come quella sfornata dai Moonchild ultimamente, allora anche i musicisti accreditati diventano fan e stanno molto attenti. Sì, Moonchild, che è la band che noi vi stiamo presentando oggi qui al Soundcheck, band della quale vi abbiamo parlato in queste quattro edizioni del nostro Soundcheck, ma che ha appena sfornato il nuovo album intitolato Voyager, pian piano dal 2014, da quando ha iniziato l'attività proprio a mettersi sul mercato, perché hanno iniziato a fare i loro provini a casa e a pubblicarli in internet, poi hanno iniziato a realizzare i loro concerti. Dal primo momento si sono fatti notare da artisti di riferimento, e fra questi ci sono anche dei veterani della black music e dell'R&B, come per esempio DJ Jazzy Jeff, che è uno dei protagonisti della scena hip hop proprio del primo periodo, o un musicista fortissimo della nuova generazione come James Poyser, che è anche il tastierista, pianista e arrangiatore dei The Roots. Eh sì, tra l'altro poi hanno anche collaborato con The Internet, tutto il collettivo, diciamo, che fa parte dei The Internet, che sono così da Kid, sì, comunque californiani. Il collettivo si chiama Odd Futures, quindi comunque loro frequentano anche quel giro lì. Poi hanno avuto anche l'ammirazione di tantissimi altri colleghi, come, per dire, diciamo solo due nomi fantastici, Jill Scott e Stevie Wonder, che hanno espresso il loro apprezzamento per la band. Eh sì, perché si sono ritrovati sullo stesso palco, cioè Moonchild hanno aperto i concerti di Stevie Wonder e Jill Scott, e certamente quando sei lì e senti un sound accattivante e così elegante, non puoi che restare affascinato. Eh sì, diciamo, il rapporto a questo, poi comunque non sono, diciamo, diventati ancora famosissimi, nel senso che anche dal punto di vista delle informazioni non trovi tantissima roba su internet, non ci sono tante interviste, non hanno rilasciato molte interviste, quindi è anche più difficile andare a trovarsi. Possiamo anche dirlo che noi abbiamo più volte tentato il contatto con Amber Navran, vocalista, sassofonista e autrice dei Moonchild, per proporle un'intervista magari via Skype, ma non ci siamo riusciti, nel senso che lei non è che ci ha snobbato, proprio non ci ha proprio considerato. Forse è un problema con i mezzi di comunicazione moderni. Sì, non lo so. È vero, perché abbiamo mandato varie email, vari contatti, Twitter, eccetera, c'era niente. Ci proveremo magari utilizzando Instagram, perché ho visto che invece lì ha messo mi piace a diversi nostri post. Ah sì, sì. Vedi? Dobbiamo provare questa via. Ok, allora Moonchild li abbiamo ascoltati proprio nella versione di DJ Jesse Jeff e James Poyser, versione remix di Be Free, che diede anche il titolo a una delle prime pubblicazioni di questa band. Invece torniamo ad ascoltare qualcosa da Voyager, e questo è uno dei brani più accattivanti. Si intitola Hideaway, qui al Soundcheck di Radio 24, The Moonchild. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. E io rimasi affascinato del sound e della creatività dei Moonchild proprio dopo aver ascoltato questo brano, forse uno dei più rappresentativi del loro repertorio. Si intitola The Truth, che troverete senz'altro andando a sbirciare le produzioni dei Moonchild su Bandcamp, perché per ora la loro musica potete seguirla soltanto su questo sito, che sta diventando il più importante distributore di musica per gli artisti della nuova generazione. Questo è il Soundcheck di Radio 24. Francesco Tromba sta sbirciando fotografie dei Moonchild, la band che vi stiamo presentando, o meglio stiamo presentando la nuova pubblicazione intitolata Voyager, in questo weekend che è uno degli ultimi del nostro programma, perché poi ci resta l'ultimo di giugno e il primo weekend di luglio, e i giochi sono fatti anche per questa edizione. Poi andiamo a prendere una bella pausa e vedremo poi che cosa succederà. Eh sì, da una parte tanta tristezza, perché comunque usciranno secondo me tanti begli album in questo periodo. Infatti, ma la cosa è che non so se hai notato che siamo invasi di musica e non abbiamo neanche più lo spazio necessario per poter suonare tante cose italiane belle, e non riusciremo a suonarle. Eh sì, si sono ricordati tutti di produrre i loro dischi in questo periodo, quando invece ci avevamo poca musica all'inizio della stagione o metà della stagione, non uscivano tantissimi. Va bene, dischi. Ma noi non ci fermeremo. Non è che si va in vacanza, dobbiamo continuare a ricercare e a alimentare il nostro bacino. Certo, la nostra ricerca sarà di nuovo, ancora una volta, giornaliera. Bene, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento a sabato prossimo a partire dalle 19:15, sempre soltanto su Radio 24, e vi lasciamo con The List, un altro brano che troverete nell'album dei Moonchild, album recentissimo intitolato Voyager. Loro sono Andris Madsen, Amber Navran e Max Brick, ragazzi eccezionali. E se finalmente riuscirò a tornare a Los Angeles quest'estate, non ho ancora avuto delle conferme ufficiali, senz'altro farò di tutto per andare a fermare Amber Navran e naturalmente offrirle qualcosa di buono. Però non è detto che riesci a trovarli, perché magari sono in tour in Europa. Non guarda, si sa mai. Se voglio arrivo dappertutto, Tromba. Col teletrasporto. Lo sai. Va bene, buona serata a tutti, buona domenica e buona musica con The Moonchild, e ci risentiamo la prossima settimana. Un saluto da Giorgio Telesforo e da Francesco Tromba.